che non c'è il cavetto, non c'è il cavetto, perché tu c'hai il 908 però non hai il cavetto, giusto? No, io c'ho il 908, sono tutte e due tempo dei com, non ne ho cavetto, io ho originali, ho capito. Mi serve il suo cavetto originale. Perché nello schema parla di voi del piccolo cavetto originale. Devo fare un'altra operazione prima di andare a Chiaramonti. Un ultimo tentativo su una cosa che mi ha detto Carlo. Porca puttana. Vabbè, se non c'è il cavetto originale non posso fare niente. Purtroppo cavetto suo originale, non so chi potrebbe, diciamo, averlo. Io mi ricordo quando l'avevi portato qua, dentro la busta che poi era qui, eccetera, c'era il manuale, c'era anche il suo microfono originale, suo proprio originale, col connettore originale. Ma in Gianluca non c'era il microfono originale. Pure che ce l'abbia pure. No, io il microfono suo ce l'ho qui, perché mi sono dimenticato di metterlo dentro la busta, però è senza connettore, capito? Vuole tutto rifatto. No, mi serviva il suo originale, perché c'è una funzione che bisogna fare col microfono originale. Tenendo premuti i due pulsanti down e up dal microfono originale. Non lo so, però Gianluca, probabile pure che ce l'abbia. Vabbè, dai, comunque, non lo so. Va bene, ascolta, dimmi un attimino, come sta andando questa modulazione alla radio? Bravo, dai. Bravo, dai che devo staccare, devo ultimare alcune cosette. Dai, se coincide ci sentiamo più tardi, Io sono qua, se mi accettiamo più tardi e dopo faccio un salto a Chiaramonti. Va bene, a dopo. la notte non si passa più, non si passa più, non si passa più. Tutti i due politiche. Hai giudicato? Vedi? Questo è più stabile. C'è qualcosa per l'alimentatore. Sarebbe il telefono di potenza. E questo alimentatore che ho non tiene la tensione giusta, ma costante, capito? Oscilla, va da 13 e 8, dopo girando a 12, a 11, e dopo di realtà. Invece questo qua è stabile, a 12, adesso per esempio l'ho messo. Vabbè. E 13,73. 13,73, mentre che parlo 77, 77. 78, 70, non mi sono neanche dicevo, questo è più stabile poi. Quello invece c'ha diversi sbatti. Quando mi metto giù a Ubrecht, Ubrecht. Ecco, io sono arrivato a 13,8, la lingua, sai che non si muove. Ecco, sempre i bisogni. Sì, ma anche gli altri bisogni già sono così. Ma se non mettono un alimentatore grande, capite, là, se no non ne varia bene. Se metto un 5 ampere o 7 ampere va benissimo. c'è per sei calate, e ancora due, quindi di cosa? Chi si non riesci a avere questa ruga, bulla, questa linea, questa ruga? Più o meno nella scala dello blow, quella di in alto, la passati allo 5, quando vado a modulare sale intorno ai 25. Ma io guarda, l'avevo notato da subito, non mi cantavo quella delizia, guarda, così fosse ma se non aveva bisogno. Bisogna vedere come il discorso è lontananza, perché a distanza magari se invece si nota quando una passa e diminuisce. Perché nel battone promesso ho detto che me li aumenta, però in PD positiva assolutamente rispondono molto più a basso banche, non so se viene il doppio modulatore inserito, che cosa. Guarda Gianluca, ti posso fare anche un'altra prova, attenzione, così è col doppio inserito, così è sganciato. Quindi da questa modulazione qua, col doppio modulatore sì, non cambierei, adesso sono senza doppio modulatore. Va bene, Gianluca, qualche altro c'è tra voi? No, negativo, adesso ti faccio capito, fra, magari appena appena vuole regolato. Sì, infatti, infatti vorrà regolato, buono, regolato. Positivo, ok. Thank you. provarlo. Non ho fatto le connessioni per provarlo in questo, hai capito? Thank you. cercando, va. Avanti fra. Ascolti questo del microfono. Ma io già ti ascolto bene. Ehi capo, no, capo, con te stiamo parlando con Gianluca. Adesso proprio quello l'ha criticato il pro del poker, a vedere come funziona, se riesce bene. Benissimo, l'ha criticato quello con l'eco. No, ma sentito. Non ho già compreso, Proxel o Prokel, boh, sono due marche diverse. Proxel, ah, positivo, ah, non ho compreso Prokel, però non capivo se era un'altra marca, hai capito? Thank you. Franco, sentiamo subito, riprendo subito. Dunque, sono qua in ascolto, con Rix. Va bene, dai. Ci sentiamo dopo, ci sentiamo. Avanti, Gianluca. Sì, va bene, siamo qua. Vediamo un po' se c'è qualche altro corrispondente, qualche altro ritorno vuole entrare. Lo vediamo un po'. Ma la temo. Ciao, gente. Qui la uso le cose, quindi si va, dopo ti scrivo il numero della sezione. Eia, va bene. Mi ha detto che era uno di regala che cosa? Non l'avevo più visto. Quando ho detto che erano così fumati, allora sono detto che mangiare, non si chiede che male. Beh, Gianlu, ma non è a tutti. Attacco il 48.